a livello locale, fare due chiacchiere, dai. Un vintage, che poi non c'ho solo questo, c'ho anche il DAC che è vintage, quindi però quattro volte di questo, ce ne vogliono due di questi, in altezza e in larghezza. Va bene, va bene. Avanti Claudio. Perché poi con la radio il segnale non è costante, a meno che non è come siamo qua con Claudio, con quelli che sono vicini. Quando siete, il segnale non è che è tanto forte, la radio non è perfettamente 5, molte volte ci sono dei passaggi, magari arriva il disturbo e non capisci bene la parola. Allora, più lenti e chiari, scandendo bene le parole senza fare macchinetta, però molte volte, soprattutto tu Riccardo, che c'è una voce molto diciamo giovanile, vai, sei piccolo ancora, e per cui parli molto velocemente e molto acuta come modulazione, per cui molte volte non riusciamo a sentire bene quello che dici. Tieni a presente, è soltanto un'osservazione, non è una critica, però piano piano si cerca sempre di migliorare. Perché bisogna stare attenti anche facendo le osservazioni, qualcuno si può offendere, speriamo che non ci sia troppa gente permalosa, perché capita, qua in frequenza più di una volta, e lo sapete più di me, quelli più anziani, che qualcuno se gli dici qualcosa si offende, dai. Io ho un grande difetto, però non sono permaloso e non sono geloso di nessuno, ci avrò tanti difetti, migliaia, però non è da parte mia da essere permaloso e geloso di qualcuno. Cioè, anzi, se quello ha delle belle cose, gli faccio complimenti, c'hai delle belle attrezzature e delle belle radio, e mai l'invidia non esiste, al contrario di molte persone che l'invidia se li mangia. Ok, avanti Tonino Kawasaki, cosa sei? Kawasaki 4 cilindri o 6 cilindri o 3 cilindri? No, ero 4 cilindri 150 per essere. Ma non è che io, guarda, sono geloso, assolutamente. Se mi piace una cosa io cerco di comprartela, e se non riesco a comprarla vado in negozio e me la compro, lo faccio arrivare da fuori. Non ho problemi di denaro, capito? Quello mai, non sono mai geloso, sono come il segno stesso, sono contento se uno migliora, sono l'uomo più felice del mondo, anche vicini, parenti eccetera. Anzi, mi dispiace se io vedo uno che è messo male, quello veramente mi si prende il cuore. E infatti noi a Riccardino stiamo cercando piano piano di inserirlo, lui è giovane, ragazzino, ci avrà tanti anni di cosa per andare avanti, però diciamo qualche consiglio, qualche cosa è bene darglielo. Poi adesso la stazione piano piano se la sta facendo, chiede ogni tanto informazioni, qualcuno gliela dà, per cui piano piano lui migliorerà. Adesso sta aspettando l'antenna, quella grande, la 5 ottavi, vogliamo anche vederla, sentire e trasmettere, perché sinceramente l'ho vista solo in figura, la nuova Mantova che sostituisce la Turbo, la 827, un'antenna sempre 5 ottavi, però c'ha 16 radialini caricata in un modo diverso, e la vedremo un po' come rende. Io sono sicuro che Riccardino si farà sentire alla grande, perché c'ha un'ottima posizione in alto, c'ha un palo abbastanza alto, per cui farà furore anche lui, e non ci sarà più problemi per quelli più lontani, compreso Alghero. Non so se Alghero l'ascolta, Riccardo. Vai Riccardo. A livello guarrete proprio. Riccardo, scusa, Roberto, ti sono passato un po' di segnale o sbaglio? Mi è sembrato sei un po' più basso di prima. Vabbè, lui sta utilizzando un baracchino di 4 watt, diciamo, un Tiberi, un bellissimo apparato base, molto bello, un grande apparato, e con un'antenna mini Grand Plane, per cui immaginavo era un po' più difficile sentirla lui. Io qua ti ascolto Santiago 8, a te Roberto, Radio 5, però poco fa mi sembra che eri un pochettino più alto. Adesso sei 7 con i picchi che salgono, però di un punto ti sei abbassato. Tonino invece arriva a bomboletta, cosa mi ha detto? Tu c'hai il baracchino, cosa c'hai Tonino? Faccio 8030, guarda, Alghero lo sento come se fosse uno che tempo fa ha sentito uno dentro casa con un dipolo all'interno, proprio il livello QRM minimo, basso, vabbè, c'è anche la mia posizione, il baracchino più io, vai. E vabbè, tieni presente che lui sta utilizzando un'antenna multibanda, almeno per quanto ho capito non è specifica su questo tipo di bande, sulla 27, e sta accordando, diciamo, si è accordato su questo tipo di, su questa banda degli 11 metri. Adesso vediamo un pochettino se migliora qualcosa o se può fare qualcosa per aumentare. Certo. Va bene, sì, comunque ero sempre in ascolto, poco fa sto facendo qualche cosa. A quant'ora c'è Riccardino, questo baracchino a tutti la porta canale, stava dicendo, lo sta vendendo tuo padre? Sì, lo sta vendendo. No, a me mi interessa comprare. E il tuo cos'è, base, Tony? Una cosa, è da dirsi per la macchina, da 13. Ma quello lì, quello che hai tu, quella marca lì, ce l'aveva Stefano, principe? Sì, ce l'aveva anche lui, perché no? Mi usciva molto bene, Stefano, lo usava con... non mi ricordo, c'era un tane più tre, o qualcosa del genere, però andava molto bene. Ma tu vai bene, per la posizione che sei, l'antenna che stai usando, qua sei 9 più 20, vabbè, tieni conto la mia posizione, però stai arrivando bene, anche di là io arrivi bene. Vediamo, fammi un attimo. La posizione, conosco le antenne che c'hai, conosco tutto, e sei sempre arrivato forte da tutte le parti, quindi... Fattore questo, qua, avere un cicapuso, avere una stazione fissa, beh, è già qualcosa di diverso, ho capito. Non stai lì a baracchino che poi metta che manca, a me manca la piazza, meglio in casa. E tutta un'altra cosa, oppure avere un baracchino che c'ha molti più canali, se domani fai di ex, eccetera. Ma la macchina non mi piace a me, il baracchino, anche il bar di Ruzzi, non ne ho mai messo io. In macchina, vabbè, quando sono stato diventato allevatore mettevo il VU, però l'antenna è 70 cm, capito? È piccolina, quindi mettevo quello. Però non vedi i pari di Ruzzi, che a me non me ne ha fatti nulla. Io ho sempre modulato dentro casa, come dici tu. No, comunque stai uscendo bene. Beh, certo, se metti un apparato, un baracchino serio, è un'altra cosa. Guarda Claudio sta usando, non è 48, però quello è 48, c'ha quasi 10 watt. E ha aumentato il segnale, esce molto bene di radio, e poi un baracchino nuovo, che va bene. Ma se metti un base, è un'altra cosa, capito? Avanti, Muros. Se non funzionava non te l'avrei dato. Io ne ho due, quindi ho detto, propongo uno scambio, perché a me serviva un vintage così a 220, anche a 23 canali, non me ne frega niente, che però funzionasse, questo è nuovo, perché il DAC è troppo grande da tenere in mezzo ai piedi, capito? Io già c'ho un sacco di apparecchiature amatoriali, avere quello in mezzo ai piedi mi prende un sacco di spazio. Invece questo l'ho messo sopra l'amplificatore, ci sta giusto, non mi dà fastidio, un angolino e lo posso usare. Cazzo, questo bene che ha servito il trangureccio, non vi credo, ha il trangureccio. Quando esce questo cane, sta sempre abbaiando, cazzo. Non ho capito, c'è un cane da lecca o cos'è? La cane è tua, qua. Guarda, un bassotto è un cane a caccia, la razza proprio taglia piccola, ma sono così curiosi. Tra di loro ci giocano il cortile, abbaiano, però mi danno fastidio per il tanto. Io ne adoro, qua, il cane. Io ce l'ho il cane, certo che l'adoro. Ma questo non rompe in balle, è una cosa che... Cioè, lui cammina abbaiando. Lui sta sempre abbaiando, la giura, non c'è niente da fare, è il cane del mio vicino qua, adesso l'ha portato giù nel giardino, ma non si può tenere, sta sempre abbaiando. Falla entrare in radio, non è che vuole entrare in radio qua. Si vuole far sentire da tutti. Riccardi, e comunque fammi sapere se tuo padre lo vuole vendere e quanto ne vuole. Che è? Questo è Eugenio. Cazzo, Bittibu, mai fatto gioco, Bittibu. Ehi, amico mio Chihuahua, buonasera a tutti. Soju, questa è la modulazione. Chiami Eugenio, è proprio un Bittibu, Duca, sei bravo. Buonasera Pitbull, Chihuahua qua da Sassari. Arrivi fortissimo, forte e chiaro, K. Cambio, che modulazione abbiamo il baracchino. Hai fatto bene a prenderlo, bravo. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Roberto, Riccardino e... ce n'è uno basso basso, non ho capito chi è, o Natalino o qualcun altro, blu? Li prendo io, no, c'è Tonio Kawasaki che non è basso basso, non so di altezza se è alto o basso, però di seriale già è buono, e poi c'è Alghero, Roberto D'Alghero, forse quello Mari è un po' più complicato, e più c'è Muros, Claudio da Muros, da come si chiama? Ti rilascio, dai, iniziamo con Coso, con Tonino poi passerà il mic a Coso, a Riccardo. Avanti, guarda, se mi ascolti sono io quello basso basso, che poi non c'ho problemi se sono basso, è importante che mi ascoltano. Niente. Avete parlato in due. Aspetta un attimino, facciamo, non facciamo confusione. Un attimino, Eugenio, ti ho rilanciato a Coso, a Tonino, però avete parlato in due. Avanti Tonino e vediamo se ti ascolta Eugenio. E poi prenderà il mic Riccardo. Mi ascolti Eugenio? Ehi, buonasera, Tonino, buonasera. Sì, ti ascolto piccolo piccolo, ok, riprendi Riccardi. Riprendi qua. Va bene, va bene. KK. Ma piovendo sta portatore, Sergi? No, in questo momento no, però c'è un'aria brutta, veramente brutta. Sente qua, vento forte, aria brutta, brutta. Secondo me qualche passata d'acqua la fa, non lo so, vabbè. Lasciamogliela fare, almeno innaffia le piante. Avanti Claudio, ripeti. Gede, l'hai sentita Claudio? Genio! Sì, sì, no, non l'ascolto. No, no, se c'è un argomento non l'ascolto. Oh. Va bene, ok. Non ti ascolta Claudio. Lui, anche lui è in una posizione un po', qua arriva fortissimo, 5-9, radio super 5, avanti Tony. Se sapete, se domani è aperto Tonino CBC. Sì, è aperto. No, meno male, si è serrato, chi che? No, questa settimana, tutta la settimana aperta. Anche caso una cana apre. Vabbè, lui era intimorito per questo fatto del coronavirus, lui non sta bene proprio di salute, però è già aperto. Sono andato l'altro giorno, anche ieri, sì, sono andato ieri a trovare il PL, non aveva la PL, le ho voluto prendere da Fusaro. Sì, anche io ho preso il PL da Fusaro, quello da Cedia. Mi ce l'ha venduti 6 a 1, non so chi li abbia presi, ne ha preso 6. No, io soltanto 2 ne ho comprati. Ma la cosa, la CBC hai preso 6 PL tu, Riccardo? No. Sì, no, io parlavo alla GBC, sono andato alla GBC, dice è venuto uno, ne ha preso 6, gli ultimi 6 li ho dati a lui, poi sono andato da Fusaro e me ne ha dato 2. Probabilmente tu sei andato un po' prima di me o dopo di me, perché io sono andato dopo che sei andato via da officina, tu Ricca. Oh, Robè. Dimmi tutto. Ma ancora si trovano quei famosi PL in ceramica all'interno, anziché in plastica? Magari, gli anfeno, no. Quelli io tutte le antenne le ho fatte con gli anfeno, tutte le cose critiche sono con gli anfeno, ho messo queste in teflon. Il problema devi stare attento quando li saldi, perché non devi scaldare troppo perché un po' si scioglie, devi farlo piano piano, ci vuole un saldatore di qualità, perché se lo fai con un saldatore di ghidi radrediti, quelli con le punte a U, quelli vecchi a pistola, sciogli tutto. Ma quelli anfeno, quelli in coso, in bachelite, non in ceramica, in bachelite ce li fanno pagare abbastanza, ma non li trovi. Su internet già c'è qualcosa, però ormai non so se sono ancora in produzione. Ma che niente, praticamente facevano anche, se ricordi, anche i potenziometri con le macchinette. Sì, i commutatori, poi ci sono i commutatori ceramici, diciamo, gli apparati di un certo livello, l'MT3000 della Magnum ce li ha tutti i ceramici, le commutazioni, per cui sono, quando c'è potenza devi avere delle cose efficaci, diciamo, l'isolamento deve essere di qualità. Questo qua esteticamente sembra buono, questo questi due PL che ho comprato io, di qualità, non dico che siano a livello degli anfeno, di quelli in bachelite, però guardandoli come costruzione anche le filettature sembrano abbastanza buone. Ok, avanti a come si chiama? A Muros, Claudio da Muros. E a ciao Claudio, ben sentito, saluto anche a tuo babbo, buon tutto. Vai Claudio da Sassari, per muro. KQSL, Claudio, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ci aggiorniamo dopo. Avanti Riccardo. Aiuto, niente, baracchini, ma cos'è questa cosa? Abbassiamo le voci. Non lo so, io, ma non si può nemmeno dormire in questo posto, con questi baracchini così, in largo, in lungo, in largo, in alto, in basso, dappertutto. Buonasera a tutti, stazione Tribling di 40 anni fa, anche di più. Ciao, ciao a me, ciao Claudio, Tonino, altrettanto a te, ciao. Chi è che è andato via? È andato via Claudio da Muro, se mi stai facendo sordo Giulio, anche tu microfono da battaglia, cioè da combattimento. C'era Riccardino, non so se l'ascolti, più c'è Roberto da Alghero, direi di rilanciare prima Roberto da Alghero che è in pausa da qualche secondo, da qualche minuto, e vediamo se lo occupi Giulio. Avanti Roberto per Giulio. Giulio, l'hai ascoltato Roberto? No, no, no, non l'ho ascoltato, non lo sento. Ciao Roberto, se mi stai ascoltando, ma non credo, perché sto uscendo col vintage del 1970, col microfono MB+4, HB23. Avanti Claudio, di Sassari. E non avevo dubbi che era quella la radio. Vedi, quello è un HB23, 23 canali come questo, rullano, rullano, sì, anche questo è del 70, sono usciti assieme, l'HB23, il Tokai 5024, il Inuit, il Polmar è uscito un po' dopo, e tutta quella serie lì, il Perception Base, tanto c'è una radio, Giulio, che... Aggiumai è più forte, aggiumai è più forte del K come questa qua, rullano veramente molto bene queste radio. Microfono è detta due volumi, 1, 2, 3, 4, 5, microfono è a 5, dunque c'è ancora altri 5 da aumentare, ma non è il caso, se è troppo forte anzi abbasso anche, ma comunque la volta scorsa me l'avete fatto regolare a questo livello e così l'ho lasciato, per cui infatti l'ho solamente pulito col pennellino senza spostare il volume. Ho fatto attenzione, se no voi mi criticheggiate che entro magari con una radio che non è piacevole o perlomeno troppo forte o troppo bassa. Vabbè, dai. Ciao Tonino, e beh, se va bene sì. Ciao Giù, e calo quanto sei forte, mi stai facendo sordo che stai facendo. Sei un bel forte. Comunque. Me l'hai sentito dopo tanto, dai. Mi fa piacere. Ok, Tonino, anche a me mi fa piacere. Ma se sento fatica basso, ditemelo voi, perché io ripeto, ce l'ho a 5, il volume mai del MB4 è a 5. E con queste radio vintage funzionano a meraviglia. Per cui ditemelo voi se volete che io abbassi. Vai Claudio. No, a me non me ne dai fastidio, a me fa bene, anche a me piacciono altre le modulazioni, anch'io ce l'ho a metà, a 5, e il Mickey Gain a metà, solo che con la radio Mickey Gain tu non ne hai, però per me lo puoi lasciare tranquillamente così. Vediamo Eugenio come ti accoppia, Eugenio. Io mi sto bevendo la mia cioccolata calda, cosa le dai queste giornate? Io Giulio ascolto alla grande, non bene, di più, alla grande. Ciao Eugenio, non sapevo che c'eri anche tu, Buonasera, stamattina eravamo a Vienna e siamo tutti entrati stasera, molto presto, vero Eugenio? Hai visto? Siamo rientrati a poco. Bella Vienna, no? Caspita, sera bella, e poi in FM eravamo anche. Caspita quanto eravamo forte, quello. Stamattina mi ha trovato anche il 2.50, in FM naturalmente. Va bene, comunque. È stato un bel dai, di 10 minuti, non molto lungo, ma di 10 minuti buoni. Va bene, vai, va bene. Sì, oggi c'è la propaganda, non sentito un po' tutte le parti, c'è anche l'est Europa, c'è la Romania, questo qua adesso sia in FM che in AM l'ho ascoltato, arrivava molto forte, riusciva a qualche parola di italiano, riusciva a farsi capire, dai, qualcosa in inglese e basta. Ok, Roberto è andato in corretti, Roberto di Alghero, poi chi c'era? Riccardino, non so se ci sia qualche altro, a parte Eugenio, Claudio, io, tu, avanti Riccardo, dai, ascolta Riccardo, Giulio. Avanti Riccardo, vediamo se ti ascolto. Sì, ti sento, basso ma già ti sento, ciao Riccardo. E allora, questa antenna è arrivata a te? Ok, no, oggi la frequenza è pulita, non c'è QRM, dunque riesco ad ascoltarti, anche se basso, però già ti sento, dai. Speriamo che non aumenti il QRM, perché se no allora diventa difficoltoso. Bene, bene, vai Tony, alla grande. E grazie al microfono, perché ho una massa e quindi devo stare con X. Ci sentiamo dopo, dai, continuate, grazie. Ok, ciao Tony, a dopo allora, faccio girare per Eugenio, vai Eugenio. Tu è uscito dall'oltretomba, Franco, di Sorso, come mai stai uscendo così basso? Buonasera. Ma non è Franco di Sorso, chi è? Non è Cioccolata che l'ha detto. Sì, avanti, anche io lo sento, però non capisco chi è. Antonio, Antonio, ciao! Vannino, Vannino. Ah, Vannino, boh, a me sembra Antonio Reserva. Ciao, Vannino. A voi insieme, non mi lasciano da soli, no. Boh, volta a testimoniare lì, buonasera a tutti, vi ascolto comunque, dai. E non io qui a riparlare. Ciao Vannino, ben sentito, dai, sembrava un'altra persona comunque. Roberto da questa parte. Ciao Vanni, e io già ti ho riconosciuto subito, dai, anche se sono col baracchino già ti conosco lo stesso. E Vareda mi arrivendi, mamma mia come sto. Perché io la lingua di Sorso non la capisco bene, devo parlare piano, se no mi capisco. Ah, secondo me tu hai fatto il foto terrese, non lo so cosa, il tedesco è bene. Sono Tucuni, Giussinchi, Eugenio. Il pagliso ha giusto, devi farlo un bel piano, se no non lo comprendo. E io stavo tornando giù, non ho giocato ancora le leggi, ha vinto vintage, se no già l'avrei riconosciuto anch'io subito, ma intanto avevo un volume molto basso e poi il baracchino questo ha un altro parlante non molto efficiente, però diciamo che già va bene, tanto già ne ho anche delle casse di quelli che io potrei anche togliere dalle radio, una radio che la posso mettere per migliorare un po' la ricezione. Va bene, vai, riprendi qua. Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. No, ma stai andando bene, stai andando benissimo alla grande, non c'è problema. Va bene, va bene. Ehi, adesso io mi appassiono un po' a questo, e poi però io purtroppo devo usare anche l'altro, se no lo accendo. Succederanno, ma questo va bene, dai, per fare due chiacchiere, ottimo per la truppa. Avanti, Lucarie. Luca, cazzo, sempre entri, esci. Vabbè, dai, riprendi tu, Roberto, fai girare. Ho sentito anche io di sfuggita, Luca. Ok, Giulio, mi stai facendo sordo, comunque la radio è bella forte, dai. Non ti avevo mai sentito in queste condizioni di spaccamento di timpani. Ok, va avanti, Eugenio. Questa settimana mi arrivano i convogliatori d'aria dell'Harley alla boia, in officina, a farmi verniciare, vabbè, coupé suoi. Emmo, ieri è passato uno con la moto, ho detto che c'è un Harley Davidson, è buono che è Eugenio, invece poi non eri tu perché era un'altra Harley Davidson, è inconfondibile il rumore dell'Harley Davidson. No, io già ti avviso quando salgo. Intanto salgo prima per vedere già lo sai i colori e la parte che mi devi riparare, poi salgo tutti i pezzi e facciamo il lavoro. Cambio! Bella, ti piace Riccardì? E quella nera ti piace? Quella nera rende di più dal vivo però. conosci, anni 70, cioperino alcolizzato, drogato, maledetto. Bellissimo. Che tempi, ragazzi. Mi prendi zio Claudio. Chihuahua. Bella, è bella. Sono morto che io non ho mai saputo praticamente, forse apprezzare, non so. Io ho avuto tante moto la strada, però la Ellie no. Mio nipote ce l'aveva, una Ellie cioperata, bellina, insomma, bella, dai, però no, non fa per me. Non riesco a portarla così la moto. Però quella tua è bella, Riccardo, quella che c'è Eugenio, e tutte e due sono molto belle. Quella rossa è splendida, spettacolare. Va bene. Avanti Giulio, riprendi. E chi è questo sotto? C'era qualcuno sotto, vabbè, dai. Io di moto non ci posso parlare, ormai non ho più l'età per la moto, per cui, però diciamo che quando ero giovane già ne ho avuto anch'io qualcuna, anzi più di una, più di due, più di tre, devo dire, però non molto potente. L'unica potente che ho avuto è una Airmax 250, quella era forte, quella, però me ne sono disfatto dopo due o tre anni, me ne sono disfatto e allora mi sono andato alla Lambretta, alla Vespa, queste moto così. Poi le altre moto veloci non mi interessano, non mi sono mai interessate più di tanto. Allora ti va bene. Sì, allora già bella, la Airmachi stai dicendo, una bella moto. La Airmachi ho avuto, 250 cilindrata, era una schiglia, era, caspita. E mi ricordo una volta lì, davanti alla cementeria, ho passato una Giulietta di quelle, di una volta, di quelle, l'Alfa 75, era roba di 170 all'ora, ha giocato, bombata, troppo colle, dopo un po' me ne sono disfatto di quella moto. E l'Airmachi era Harley Davidson, Si erano congiunte un tempo. Sì, AMF e Harley Davidson hanno fatto lo scrambler pure. Esatto. Sì, chi è avanti? Chi era quello? Antonio? K2 mi sembra, così hai detto. Ti sento, Santiago 5, da dove stai parlando? Dalla fattoria, zona Platamona, no, qua arrivi, Santiago 5, dai, radio un po' bassa, 3, però il segnale 5, lo senti tu Roberto? Sento, il segnale è 5, ma c'è il problema a 5, non capisco quello che sta dicendo, radio 2, 1, 2, quasi 0, dai. No, io ho QRM, non io, c'ho QRM a 2, 1, 2, per quello sento molto bene anche Riccardo. Eugenio, tu lo senti a K2 da lì, da Platamona? Oh, non arriva manco, ma niente di striscio, niente. Vabbè, mi sentite, sì. Oh, Luz, ti hanno rilanciato, non si è entrato. Ah, perché sono andato a puntare per sistemare, adesso lo devo finire. Ho fatto caricare la batteria, adesso lo devo resettare e poi rimpostare. Adesso sono qua comunque, nascosto, dai. Saluto tutti quelli che ci sono, non so chi c'è. Comunque sento Giulio, Claudio, Roberto, poi c'è Riccardino, poi boh, avanti, riprendi tu, Claudio, non so chi c'è, vai. Non so se c'è Gianni, doppio rumbo, boh, vai. Anch'io ci sono. Ho detto anch'io ci sono, non ho capito chi è. Vabbè, c'è tanta gente, però se non parlate, non breccate, non entrate, noi non sappiamo chi ci è nascosto. Ciao Lu, hai detto che mi volevi ascoltare da casa, va bene lì da casa tua? A voglia, cla, sei su 3+3. E vabbè, 5 watt modulati 6-7, dai. Avanti, chi ha detto ci sono anch'io, chi sei? Buonasera Claudio, Radio Solo 7, dai. Orario sono, buonasera a tutti, dai, Roger, come ci sto arrivando oggi, Claudio, questa modulazione, come oggi, vediamo un po' se adesso è migliore di quella di ieri. Comunque, il microfono ieri lo stavo regolando con un altro collega, e pare che tu sia stato un po' regolato, non lo so, vabbè, un altro momento lo troviamo con te a vedere come va, a vedere che parere mi dai. Dipendi. Tu Claudio mi hai fatto entrare, buonasera a tutti ancora, e da questa parte sempre Urario dalla collina, a te cambio Claudio. Papà. dice buonasera, io non sapevo che c'eri, non ti ho sentito l'ingresso, quindi non sapevo che eri qua. Ciao, buonasera, ben ascoltato, 5-9 per segnale per te, la radio ottimamente buona rispetto a ieri, tutta un'altra cosa, ti passo Giulio e ti confermerà, vai Giulio. Ok, ciao Francesco, sì, oggi ti sento bene, dai, oggi la radio è pulita, almeno quello se non altro, ultimamente bene, a differenza di ieri che era troppo brutta, troppo sporca era. Va bene, però hai cambiato radio, confermi ai Francesco. Sto usando il spettro di pure, ho abbinato con un MB+5 modificato, ok, tutto qua. Roger, quel microfono come stavo facendo prima, Claudio, vediamo un po' un altro momento, dai, così mi dirai, perché l'abbiamo testato un coso con l'altro Claudio, o K, tuo collega, o Claudio, niente, dai. Pare che vada bene, secondo lui, adesso dipende anche dagli altri pareri degli altri per vedere come va, ok. Va bene, quel microfono è un po' la sua maniera, era stato regolato, l'avevamo regolato con te, Claudio, se ti ricordi, però si vede che io non ho toccato niente, si vede che si è spostato da solo, non so come cazzo fa a spostarsi da solo il microfono. Non so, vabbè, comunque è stato ritestato, vediamo un po' alla prossima a vedere come va. Ok, niente, a te di nuovo Giulio. Ok, già va bene Francesco, dai, lasciamo sempre così che già va bene, non c'è problema, veramente bene. Vediamo un po', Eugenio, avanti Eugenio, poi chiamate quella K2, mi sembra che era, quell'altro che era entrato a Bratavola, fatelo venire avanti voi dopo, vai Eugenio. Io non ascolto né K2 né questo Francesco, né uno né l'altro, ma, vabbè, buonasera, se mi ascoltano io non li ascolto. Riprendi che K2 hai detto, K2 se mi ascolti, cambio. Cosa sta parlando lui? Non c'è il radio K2, il segnale 5, se avessi avuto un po' più di radio arrivavi sicuramente molto molto meglio, capito? Però il segnale 5, io ti ascolto, non ho problemi, riesco a capire ciò che dici, però c'è la radio un po' troppo bassa, ok? Vediamo un po' se ti ascolta meglio Riccardo, avanti Riccardo. Dai, riprendo io. K2, io non ti ascolto, ti sento proprio sul fondo, c'ho il cuore MA5, il segnale tuo è più o meno così, non riesco a capire quello che dici, spero che mi stai ascoltando, mentre Francesco qua arriva a bomba. 9+5 Radio 5, dove ti trovi Francesco? Qua Roberto da questa parte. Ok, Roberto, niente, conti a capire solo, dal mio conti a capire solo qua, ok, dove sta collinare, ok. Io in pratica mi trovo sotto il cartello K, sotto il cartello mi trovo. Niente, questo è il cammino stesso, lo sento bassissimo, ho segnale di 1, è radio 1 lo stesso, K2 idem è un segnale di 3 mi pare, è radio bassissima 2, ok, tutti i bassi arrivano qua, va bene dai, riprendi Claudio. Vabbè, stiamo usando il baracchino, e anch'io sto usando il baracchino, un vintage anni 70, anche Giulio, quindi se i segnali sono più bassi, però a noi ci senti bene di radio sicuramente. Ok, avanti, Eugenio, riprendi tu e vai per Luca, dai. Questo Francesco da dove sta modulando? Non ho capito. Osiro. Ah, ok, Osiro. E poi Osiro è alta, dovrebbe arrivare qua. Dovrebbe arrivarci, ma Francesco, non lo so, vabbè. Osiro, ma camionista è. No, vabbè, non lo so. Vabbè, riprendi Luca. No, Luca sta facendo cosa? Riprendi. Va, Roberto. Gaia, mi sta dicendo che dietro il castello, diciamo, forse è un po' coperto dalle parti tue. Qua, vabbè, siamo abbastanza vicini, lo ascolto perfettamente, radio bella chiara e amplificata. Come mi ascolti tu, Uranio? Benissimo, benissimo, più che bene, Santiago Lover, radio 5 perfetta, chiarissima. Ok, che condizioni c'è di trasmissione? Che antenna stai utilizzando tu? Un'antenna tutta mezzo capotata, infatti la devo sostituire. Stavo guardando una Tornado, c'era effetto quella lì. Sto usando una, volontariamente sto usando una, come cavolo si chiama, una Energy 5 ottavi sto usando, che ci manca pure un radiale, me l'aveva buttato giù il vento l'anno scorso, è ancora così. E c'ho anche lo stile un po' inclinato pure, il vento me l'ha, e meno male che anche accurata, se no questa sarebbe stata chissà dove. Vabbè dai, comunque niente, sto usando quella lì. Ok, no, perfetto, radio 5, segnale 9P5 positivo, oltre 9, certi momenti. Ok, Giulio, riprenditi il mic e poi passerai il mic a Riccardino e poi sei rientrato Tonino Cavazzani. Ok, allora riprendo io. Sì, ma te lo sento bene, però io ti sento bene, strano, una cosa strana, quando tu parli con Gianni, che è da Porto Torres, evidentemente vi sentite molto bene, perché io anche la volta scorsa vi ho sentito, stavamo parlando assieme, noi tre, evidentemente Eugenio è in una posizione rispetto alla tua, o Francesco, che non riesce a sentirti. E vabbè, succede, purtroppo l'elettronica è anche questa, non possiamo cambiarla. Avanti Riccardino. Non lo sento, eh. Oh Riccardo, ti ha rilanciato Giulio, non l'ascolti a Giulio? Lasciate un attimo di bianco, va bene, va bene. Ok, dille a Babbo, trovati un microfono un po' più che ti amplifichi un po' la modulazione, vabbè. Quella radio ci va bene, uno di questi, un MB più 4, un MB più 5. Perché lo sento abbastanza bene, però la modulazione è bassa. È bassa, poi lui parla un po' in fretta e a volte non capisco quello che dice. Capito Riccardo, lì ci vorrebbe un microfono un po' più preamplificato, qualcosa da amplificare la modulazione. Va bene, e avanti Eugenio. Va bene. Oggi come tutte le sere è sera, e come tutte le domeniche è domenica, riprendi giù. Davvero mio, sai che hai ragione? Aspetta, non l'avevo notato oggi, tutto così. Noi speriamo che finisca questa storia del virus, che ne sarà quando sarà sempre rientrato a casa. Almeno prima uscivo tutte le mattine, mancavo in mente, e adesso con due mesi e mezzo senza uscire da casa, eccetto qualche giorno così tipo andare a prendere la pensione, oppure quando sono dovuto andare per altri motivi. Ma diciamo che in 3 mesi sono uscito, se no 3 volte, 4 volte, non di più. Comunque, sono uscito anche a Badia, da qui a 200 metri da casa, per andare a fare la spesa. Ti puoi immaginare che la sei passeggiata lunga che ho fatto, 200 metri. Va bene, va bene, passerà anche quello, non c'è problema. Ma ho sentito poc'anzi che era rientrato Tonino, confermate, Tonino ci sei? No, Tonino non c'è, K2 avanti. Ti copio basso, ma avvicina il microfono alla bocca, perché sennò magari non riesco nemmeno a sentirti. Troppo basso sì, di segnali del radio soprattutto. Avanti K2. Ti faccio la porta io perché non ti sento Eugenio. Eugenio, K2 ti ha chiesto se tu sei di Porto Torres. Dai la risposta, intanto va a te, già ti sente. Vai Eugenio. Bianco per me un attimo. Torres. Sì. Sono di Porto Torres. Perché? Ti ha chiesto Eugenio. vedere com'è il mare, visto che sei di produttore, cioè che devi andare a pescare. Non c'è andare a pescare, che sta entrando una maestrellata di quelle fenomenali. E vabbè, se ce ne vuole un altro di mese continuiamo a rimanere, caro K2, serve per sanificare, serve per la nostra salute. Quando sarà il momento vuol dire usciremo. Roberto si è assentato un attimo, che ci è rimasto? Luca, riprendi. E di dove è lui? Platamona da Giuditto è. Ah, lui è quello di Platamona. Ah vabbè, Franco di Francesco di Rosio. A Platamona non lo sento, quanti mai? Lì vicino alla fattoria, capito? Alla fine della BDVD praticamente. Sì, lo so per la fattoria, e non lo sento. Sì, io lo sento, Santiago 5, basso del radio 3, però già lo sento. Avanti Break, buonasera. Buonasera a tutti, Gavino da queste parti. Le parti del monte basso. Ciao Gavi, buonasera, ben ascoltato. Ci sono io, poi c'è Roberto, un attimo in QRX, Riccardo, Giulio, K2 da Platamona, Eugenio da Porto Torres, Giulio e Lucariello. Ok, questo è per farti capire chi c'è. Il cambio va a Riccardo, vai Riccardo e fai girare. Gavino da Sassari, che è vicino a te, quindi vi sentite bene. Gavi, vai tu perché vuoi, dai, c'è Giulio, insomma tutti, dai. Buonasera Giulio, poi vabbè gli altri non so chi c'è, in ruota, avanti, dai. Okay. Ciao Gavi, ben entrato, ben ascoltato anche, sempre alla grande, non c'è problema. Ci siamo dimenticati di dire a Gavino che c'è anche Francesco da Usilo. Va bene, dai, facciamo girare per Eugenio, avanti Eugenio per Gavino. Ciao Gavi, ben sentito, buonasera. Mi approfitto per dirvi che mi sto allontanando una ventina di secondi, sto arrivando subito. Guarda che faccio scattare il cronometro io adesso, perciò ho da piombo. Va bene, dai. Vai Claudio. Il K, io ripasso per Francesco allora in Ugilo per salutare a Gavino. Vai Francesco. Ok, ciao Gavino, allora buonasera e salutone cordiale qua dalla collina. Ok, perfetto. Questo Riccardo, in quale zona è? Mi pare di aver capito Sassari, però in quale zona è? Perché è molto molto basso come ha detto la prima, forse starà usando qualche antenino, non so come sia composto. Riprendi Giulio. Ok. Un attimo, un ricadino, ascolta quando si lanciano il microfono, se no si accavalliamo, perché Francesco aveva rilanciato per me. Sì, stiamo trovando la Sassari, ma è in fase di allestimento per una stazione performante, Francesco, per cui adesso è basso, anch'io lo sento basso, nonostante che sono a Sassari, per cui lui si sta attrezzando. Le sta arrivando l'antenna, le sta arrivando, poi il padre penserà anche a comprargli un microfono un pochino migliore di quello che sta utilizzando adesso. È un ragazzo che è appena entrato in frequenza, così un mezzetto ci sarà da poco, insomma, ed è giovanissimo, come avrei sentito dalla voce. Va bene, facciamo girare per K2, avanti K2. Ok, d'accordo, K2, alle prossime, allora dai, anche tu attrezzati un pochino, così almeno ti fai sentire meglio, perché se c'è un pochino di interferenza sarà molto ma molto difficile ascoltarti. Va bene, facciamo vigilare. Avanti, chi c'era rimasto? Luca. Io sono qua in ascolto, che sto facendo, sto sistemando un tablet. Quasi finito, dai, poi riprendo. Ok, d'accordo Luca. Claudio. K, va bene, sì, anch'io l'ascolto bene oggi, perché non c'ho QRM, c'ho QRM a Santiago 1, 2, quindi lui è abbastanza alto di segnale e arriva, però io a volte non lo sento perché c'è la modulazione bassa, bisogna mettere qualcosa di amplificato lì, Riccardo, capito? Diglielo a Sergio. A Babbo che ci vuole un microfono preamplificato, perché la modulazione è troppo bassa di quella radio, così no, non hai problemi, eh? Ok, avanti Genio. Eugenio ha detto si assintava. Francia, riprendi tu, vai. Mi ascolti bene lì a Osero, sì? A voi ha un segnale di 7 e una radio di 5 con la solita, sai, non arrivi tu. Tu non hai differenze di modulazione, sia con l'apparecchiatura professionale, sia anche con un barchino, perché la tua modulazione è inconfondibilissima, 5 perfetta, una modulazione di frequenza in pratica, dai. Chiedi così e voi. Tu arrivi benissimo, sempre bene, qualsiasi cosa tu attacchi e usi, sempre bene, sempre bene. Il timbro della modulazione non cambia mai, sempre lo stesso. Ok, vabbè. Allora, spero bene per questo Riccardo. Allora, evidentemente sta usando qualche altrino, qualcosa, diciamo, messo così provvisorio da qualche parte, magari. Cioè, in qualche attico, non so dove, arriva basta per quello. Ma se mette l'antenna fuori, già arriva anche qua, perché qua sta arrivando con un segnale circa di 1,5, e la radio è 1, Ok, però se mette l'antenna fuori, sicuramente già arriva anche... Arriva anche forte, magari 5, 6 o 7 anche, dipende. E se c'è anche com'è che per amplificato è ancora meglio, perché allora la modulazione cambia di parecchio e va ancora meglio. Ok, Roger. Va bene, io non so che lanciare, va bene, riprendi su Giulio, vai. Ok, riprendo io, sempre i soliti 3, 4, 5 secondi di bianco, sempre facciamo, perché se vuole entrare qualcuno così lo possiamo sentire. Sì, diciamo che nella posizione in cui abita è abbastanza in alto a Sassari, però è in campagna con l'antennino e tra l'altro non è nemmeno sul tetto, l'antenna è in basso, è sul terreno, ha messo un palo per terra e è attaccato l'antenna. È solo questione del tempo, dai, di giorni, perché sta aspettando l'antenna come si deve, con la ciclotabile sta aspettando, mentre adesso sta utilizzando un antennino praticamente da un quarto d'onda, niente di più. Mi sembra che sia una mini Grand Prix, non lo so, qualcosa del genere, perlomeno per sentito dire così nei giorni passati in frequenza. Va bene così, dimmi piuttosto come mi senti in radio o Francesco, che io sto usando un baracchino del 1970. Avanti Francesco, 4 watt di potenza. Sì. Tu di radio mi sta arrivando 5, di radio mi sta arrivando 5 lo stesso, è perfetta, chiarissima, chiarissima. E io sto usando un po' di potenza qua, se no se stacco non mi sentite più, perché questo apparecchio gli hanno passato la potenza, quindi per poter pilotare hanno fatto un mezzo casino qua e vuole tutto revisionato e tutto rimesso a posto, dai, ok? Lo sto usando così momentaneamente tanto per non lasciarlo fermo. E niente, tutto qua. Comunque tu stai arrivando, ripeto, 5 di radio, ok, perfetto, a te. Oh Francesco, volevo sapere io quanto ci arrivavo lì, da Osio. Tu mi arrivi lo stesso, 5, radio 5, perfetta. Vai qua. Vai giù. Ok, perché praticamente abbiamo lo stesso segnale, Gravino. Io ho l'attenuante, ho Francesca, la cronaca, che sto usando l'antenna autocostruita e poi sono anche in basso, già lo sai, abito nei punti, dunque nella vallata, a 130 metri sotto casa, misurato con 135, misurato con lo strumento professionale. E vabbè, comunque, abito qua, pazienza, che domani ho sbagliato quando ho costruito la casa, dovevo mettere le ruote, così l'avrei potuta spostare a piacimento, invece me sono dimenticato, non ci ho pensato a mettere le ruote. Pazienza, vai Gabì. Che ti dovevi fare mettere un traliccio sopra, capito? Forse era meglio mettere le ruote nelle fondamenta, vero? O nella casa, diciamo, una struttura. No, infatti è questo, che prima avevo la motocattuvo dell'alta, e la alta sia come palo, perché c'era un palo a 6 metri, più da dove adesso questo dipolo, perché è un dipolo in verticale autocostruito, tipo Game Master per la cronaca, ed è 6 metri più in basso rispetto a dove l'ha montata l'antenna, c'è che 6 più 6 fanno 12, in realtà adesso è almeno 7-8 metri più in basso di come la prima, perché considerando e facendo i calcoli fra l'antenna e il palo che c'era prima, il palo che c'è adesso e l'antenna che c'è adesso, perché è sempre lunga 7 metri comunque, è una canna da pesca. Va bene, avanti Claudio. Ok, va bene, va bene. No, ma già importante ci sentiamo, dai. L'importante è che ci sentiamo, io lo stesso sto usando 5 watt, quindi già va bene con questo baracchino anni 70 anche questo. Vediamo un po' K2, ci sei K2? Ecco. Registrato il Breco, avanti. No, K2 abbiamo già chiuso Claudio, avanti Massimiliano. Positivo, ciao, buonasera a tutti, ciao Giulio e ciao a tutta la ruota, dai. Non è che abbia fatto ascolto perché ho acceso in questo momento. Ok, dai, rilancio a te Giulio e fagliela girare tu, vedrai chi c'è. Sì, c'è Gabino, c'è Francesco da Osino, Eugenio che si è allontanato, poi momento fa c'era K2 da Platamona, non so se l'ha mai sentito, e poi c'è Claudio, Robertino, e Roberto Grande invece si è sentato anche lui, vai per chi vuoi. Positivo, ciao Gabino, Claudio, Benetto, Riccardo, Robertino, Robertone, uscire, vabbè, comunque. Ok, dai, io rimetto il cambio a Gabino e fa girare, ciao Gabino, avanti. Ehi, ehi, ciao Massimiliano, bentornato. Dunque qua sto usando un baracchino normale, vintage, così è, quanto ho capito. Sì, ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Sì, sto usando un Polmar 7000 DX degli anni 70, 23 canali più il 22 alfa, capito? E il microfono è uguale al tuo praticamente, MB più 5. C'è anche Francesco da Osilo, Massimiliano, ok, che le ripasso il cambio, vai Francesco. Ok, registrato il becco. Perfetto, buonasera Massimiliano, ben sentito qua dalla collina, ok. Roger, vediamo un po' di fare entrare il break, avanti break. Ciao Claudio, buonasera, ben riascoltato. Ok, cosa stavo dicendo? Vabbè, il cambio aspetta Eugenio, vediamo se è rientrato, se non riprendi tu Massimiliano. Massimiliano. Ho lasciato un po' di bianco, vediamo un po' se riprendeva, capito? Sì, dai, saluto a Claudio Arrugginito. E niente, da Francesco lì dalle collinette alte, che l'ascolto bene. Ok, e niente, c'è anche Riccardino, vai Riccardo. Andrà bene, dai, vai Claudio Arrugginito, riprendi tu e fai girare. Sì, va bene, va bene, è la gemella di questa, dai, solo che anziché essere Polmar è noi. Va bene, va bene, e la modulazione è simile al 48, clap. Non è che cambi molto, forse questa perché c'ha il, non lo so, la sento un pochino più forte, la sento un pochino più forte, poi quando ti rilancio mi dirai se hai toccato o aumentato il mic gain. Vai Giulio. Ok, ciao Claudio, Claudio di Mulos, sì, ci siamo sentiti anche stamattina, sì, ho qua, Claudio di Sassari, l'ho sentito stamattina col baracchino che hai portato tu, usciva benissimo, andava benissimo, non c'era problema, va bene, la frequenza era pulita, non c'era QRM eccetera, però lo sentivo molto ma molto bene. C'era anche l'altro che era quello di Alghero, o Angelino, c'era anche Angelino. Bene, bene, dimmi piuttosto se mi senti con questo baracchino, perché io sto facendo col baracchino a 4 watt, adesso Claudio di Muros, se lo cambio, avanti Claudio ancora, e poi fai girare tu eventualmente. Claudio, l'hai sentito a Giulio? Lascialo così, lascialo così che va bene, ok, avanti Robè, sei rientrato? Massimili, riprendi tu, dai. Sì, positivo, va, quindi tutti quelli radiovecchi, se devo, già andavo, là, bella cosa questa. Avanti Francisco. Ok, perfetto, ma volevo chiedere una cosa a quello di Muroso. Claudio Arrugginetto mi pare, se non ho capito male, non lo so, vabbè dai. Comunque, Claudio, sta usando per caso il CB294, perché una parecchia ce l'ho avuto io in passato, per caso, lo scuola che ho fatto io, l'ho trovato proprio uno con le zecca era, e l'ho dato via per farmi uno sconto per un'altra parecchia, no, come sono anche pettito. Vabbè, riprendi Claudio e vedrai se è così. Già lo conosco, c'è frequenza tuo padre, al tuo gringellone lo conosco, in frequenza però di in verticale non negativo, ma capiterà l'occasione, sicuramente. Ok, va bene, dai, riprendi Giulio. Ok, va bene, riprendo io e faccio rientrare Massimiliano, così nel frattempo io stacco l'antenna e cambio radio, così mi sento meglio. Claudio di Muro, avanti Massimiliano, vai. Sì, dai, io riprendo, rimango un attimino in quel rix e vado qui TH piccolo a farmi una bella docetta, no? Poi se ne voglio rientro, ok? Se no ritenetevi salutati momentaneamente, vai Gavi, riprendi tu e fare girare. Eia, un saluto a Claudio di Muros, ben rientrato, un buon segnale, Santiago 9 e Radio 5, ok, faccio girare, dai. Gavi, dire a Torino, abbassa le voci. Allora riprendo io, va bene, quindi Massimiliano sta, si allontana un attimo, che sta andando in bagno, Giulio sta cambiando, quindi il mic è per Riccardo, riprendi tu Riccardo. C'è il più 4 e il più 5. Il più 5 è quello con i toni, la regolazione dei toni, e il più 4 senza regolazione dei toni. Li vende Fusaro a Sassari, se ne ha, altrimenti te lo ordini da fuori, capito? Costa una fesseria, però ti consente di avere una modulazione un po' più alta, capito Riccardo. Non te ne fai niente di eco, bip, non te ne fai niente Riccardo, ti prendi un più 4, un più 5, se ti piace il più 5 ti prendi il più 5, sì, c'è una decina di differenza, una decina di euro di differenza, più o meno con i baracchini stiamo usando tutti questo, dai, anch'io adesso sto usando l'MB più 5 col Polmar, quindi va bene, anche tu c'è una radio vintage, quindi esci molto bene col microfono da TAF. Vediamo un po' se Giulio ha cambiato radio, Giulio? Sì, non so se sto facendo bene, ma penso di sì. Aumentiamo appena appena. Qua, ecco qua. Adesso ci sono. Adesso ci sono, sì, adesso ci sono. Sì, ho cambiato, così almeno mi sente bene l'amico di Mulos. Vediamo un po', anzi adesso glielo chiedo subito. Avanti Claudio di Mulos, mi ascolti adesso?